Dall'Europa seguiamo le indicazioni riportate sul roadbook della Parigi-Dakar. Il percorso ci riporta nel grande continente africano, nella parte nord-occidentale dove si trova l'arrivo di questa storica corsa rally. Ben arrivati in Senegal. Definito la porta dell'Africa grazie alla sua posizione strategica, il Senegal affaccia direttamente sull'Oceano Atlantico. Con un paesaggio prevalentemente pianeggiante, la penisola di Capo Verde ospita la capitale Dakar, punto più occidentale dell'Africa che offre un eccellente porto naturale. La popolazione ha ereditato molto dell'influenza francese del periodo coloniale, tra cui la lingua e la cucina. Dakar è una località in continua espansione. Conosciuta per le sue attrazioni culturali come Dakart, l'Institut Français, il Museo Théodore Monod e il Black Rock Senegal. L'arte della musica però rende questo paese veramente unico, attraverso il ritmo dei tamburi djembe, della kora, delle chitarre acustiche e degli strumenti a corda. Tra le tante escursioni disponibili da organizzare non lontano dalla capitale ci sono la visita a Île de Gorée, una piccola isola con edifici colorati e bougainville, e l'isola d'Ingor, caratterizzata da rocce vulcaniche e spiagge dove praticare surf. In cucina, invece, troviamo la tapalapa, una baguette composta da varie farine prevalentemente cotta a legna. I senegalesi la consumano in tutti i modi. È un pane tipico da colazione, ma che accompagna diversi pasti. Farne un panino ripieno sarebbe troppo, perché è veramente pesante. Invece in giro per le strade troviamo diverse soluzioni più fattibili. Grazie al periodo della colonizzazione francese, la baguette anche qui riscontra molto successo. Come street food si trova spesso il pain ton, fatto con un soffritto di cipolla, peperoni e tonno in scatola, completato da maionese e uovo sodo. Qualche chiosco ci mette in mezzo anche le patatine fritte. Per la parte alcolica, invece, ci rimettiamo alle tradizionali bevande del posto, composte da fiori di ibisco, zenzero e farina di baobab. In una ricetta c'era il latte di cocco, ma tranquilla ilà, l'abbiamo sostituita col latte di mandorla. L'arrivo è previsto ai piedi delle Monument della Renaissance African. Il costo di questo rally è di 15 euro. Un proverbio locale dice: Gor gumeg gaidee, bibliothek baitakla. Un anziano che muore è una biblioteca che brucia. Grazie per l'ascolto.